Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo 21. Come bisogna fare la comunione? La preparazione alla Santa Comunione comincia la sera precedente, con molte aspirazioni e slanci di amore. Ritirati per tempo in camera tua, prima del solito, così il mattino seguente sarai pronta per alzarti più presto. Se durante la notte dovessi svegliarti, metti subito nel cuore e nella bocca qualche pensiero odoroso, per profumare la tua anima e prepararla a ricevere lo sposo che veglia mentre dormi e si prepara ad arricchirti di infinite grazie e favori, se sei pronta a riceverli. Al mattino alzati con grande gioia per la felicità che speri e, dopo esserti confessata, va con grande fiducia, ma anche con grande umiltà, a ricevere quel cibo celeste che ti nutre per l'immortalità. Dopo aver pronunciato le sante parole: Signore, non son degna. Non muovere più né la testa né le labbra. Non per pregare e ancora meno per sospirare, ma apri dolcemente e mediamente la bocca e, alzando la testa quel tanto che basta perché il sacerdote veda quello che fa, ricevi piena di fede, di speranza e di carità colui al quale, il quale, per il quale e nel quale tu credi, speri, bruci di amore. Il sacerdote sull'altare prende tra le mani il Salvatore del mondo, vero figlio di Dio, simile a rugiada discesa dal cielo, e vero figlio della Vergine, simile a fiore sbocciato dalla terra della nostra umanità, e lo offre in cibo di soavità alla tua bocca e al tuo corpo. Appena Gesù è in te, scuoti il cuore, perché venga a rendere omaggio al Re della salvezza. Esamina con Lui la tua situazione interiore. Pensa chi hai in te e che c'è venuto per la tua felicità. Accoglilo meglio che puoi e comportati in modo tale che si veda, da tutte le tue azioni, che Dio è con te. Ma se non avessi la grazia di comunicare realmente nella Santa Messa, comunicati almeno con il cuore e lo spirito, unendoti con un ardente desiderio alla carne del Salvatore. La tua prima intenzione nella comunione deve essere di progredire, fortificarti, stabilizzarti nell'amore di Dio. Perché quello che ti è dato soltanto per amore, tu lo devi ricevere con amore. Non è possibile immaginare il Salvatore impegnato in un'azione più piena di amore, più tenera di questa, nella quale si può dire che distrugga se stesso, riducendosi in cibo per entrare nelle nostre anime e unirsi intimamente al cuore e al corpo dei fedeli. Se ti domandano perché fai la comunione così spesso, rispondi che è per imparare ad amare Dio, per purificarti dalle imperfezioni. per liberarti dalle miserie, per consolarti nelle afflizioni e per trovare sostegno nelle debolezze. Rispondi che sono due le categorie di persone che devono fare spesso la comunione. I perfetti, perché essendo ben disposti, farebbero molto male a non accostarsi alla sorgente della perfezione. E gli imperfetti, per poter camminare verso la perfezione. I forti, per non rischiare di scoprirsi deboli. E i deboli, per diventare forti. I malati per guarire e i sani per non ammalarsi. Tu poi, creatura imperfetta, debole, ammalata, hai bisogno di comunicare spesso con la perfezione, con la forza e il medico. Rispondi che coloro i quali non hanno molte occupazioni devono fare la comunione perché ne hanno il tempo. Quelli invece che sono molto occupati la devono fare perché ne hanno bisogno. Perché chi lavora molto ed è carico di preoccupazioni deve nutrirsi di cibi sostanziosi e deve mangiare spesso. Comunicati spesso, Filotea, più spesso che puoi, secondo il parere del tuo padre spirituale. Credimi, le lepri qui da noi, sulle nostre montagne, in inverno diventano bianche perché non vedono e non mangiano che neve. Anche tu, a forza di adorare e di nutrirti di bellezza, di bontà e della stessa purezza di questo divino sacramento, diventerai bella, santa e pura. Parte. Contiene molti consigli per l'esercizio delle virtù. Capitolo primo. La scelta necessaria nell'esercizio delle virtù. Come la regina delle api, non esce mai senza essere circondata da tutto il suo piccolo popolo, così la carità non entra mai in un cuore senza condurre al suo seguito tutte le altre virtù. Come un buon capitano, le mantiene tutte in esercizio, le impiega in vari compiti, come soldati, chi per un servizio, chi per un altro, chi in un modo, chi in un altro, chi prima, chi dopo, chi in questo luogo, chi in quell'altro. Il giusto è come un albero piantato lungo un corso d'acqua che porta i frutti nella sua stagione. Quando la carità entra in un'anima, produce in essa frutti di virtù, ciascuno a suo tempo. La musica briosa, tanto gradevole in sé, può essere fuori luogo in un lutto. Sono molti ad avere il difetto che ora ti dico. Siccome si sono impegnati in una determinata virtù, si intestardiscono a volerla praticare in tutte le circostanze e vogliono o piangere senza interruzione o ridere senza fine, proprio come certi antichi filosofi. Anzi, fanno di peggio, trovano da ridire e coprono di biasimo quelli che non li seguono nell'esercizio delle loro virtù. L'Apostolo dice che bisogna rallegrarsi con quelli che sono contenti e piangere con quelli che sono afflitti. Dice anche che la carità è paziente e benevola, aperta, prudente, accondiscendente. A dire il vero, ci sono delle virtù che hanno un impiego quasi universale, per cui non soltanto non devono essere praticate separatamente, ma anzi, devono arricchire delle loro qualità gli atti di tutte le altre virtù. Per esempio, le occasioni di praticare la forza, la magnanimità, la munificenza non sono molto frequenti. Altre virtù, invece, come la dolcezza, la temperanza, l'onestà e l'umiltà, devono dare colore e splendore agli atti di tutte le altre virtù. Non è che non ci siano virtù superiori in eccellenza, ma il fatto è che queste sono richieste con maggiore frequenza. Lo zucchero è più buono del sale, ma il sale ha un impiego più frequente e più generale. Questa è la ragione per la quale occorre avere sempre pronta una buona provvista di queste virtù generali. Si può dire che il loro impiego sia necessario quasi ininterrottamente. Nell'esercizio delle virtù dobbiamo dare la preferenza a quelle più utili al compimento del nostro dovere e non a quelle che ci piacciono di più. A Santa Paola piacevano le asprezze delle mortificazioni corporali per godere più facilmente delle dolcezze dello spirito, ma il suo primo dovere era l'obbedienza ai superiori. Questa è la ragione per la quale San Gerolamo dice che era da riprendere, perché si dava digiuni incontrollati contro il parere del suo vescovo. Gli apostoli, per contro, istituiti per predicare il Vangelo e distribuire il pane celeste alle anime, giudicarono cosa molto ben fatta per poter esercitare tale mansione senza distrazioni, tralasciare la pratica della virtù della cura dei poveri, che pure in sé è ottima. Ogni vocazione ha le sue virtù particolari. Le virtù proprie di un vescovo non sono quelle di un principe. Le virtù adatte ad un soldato non sono quelle di una donna sposata. Quelle di una vedova sono altre ancora. È vero che tutti devono possedere tutte le virtù, ma questo non vuol dire che debbano praticarle allo stesso modo. Ognuno deve impegnarsi in modo tutto speciale in quelle proprie dello stato cui è stato chiamato. Tra le virtù che non riguardano in modo specifico il nostro stato, dobbiamo dare la preferenza alle migliori, non alle più appariscenti. Alla vista le comete sembrano più grandi delle stelle e ai nostri occhi hanno una dimensione maggiore. Invece non sono nemmeno paragonabili alle stelle, né per grandezza né per luminosità. Ci sembrano più grandi solo perché sono più vicine a noi e composte di materiale più grossolano di quello delle stelle. Lo stesso avviene per certe virtù che, per il fatto che sono più vicine a noi, sono sensibili e direi quasi palpabili. Il popolino le stima molto, le preferisce. Per questo rimane più colpito dall'elemosina materiale che da quella spirituale. Antepone il cilicio, il digiuno, la nudità, la disciplina e le mortificazioni del corpo alla dolcezza, alla bontà, alla modestia e ad altre mortificazioni del cuore. E se vogliamo essere onesti, queste ultime sono di molto migliori. Tu, Filotea, devi scegliere le virtù più consistenti, non quelle che godono di maggiore stima. Devi scegliere le più efficaci, non le più appariscenti. Le migliori, non le più onorate. È bene che ognuno scelga l'esercizio particolarmente intenso di qualche virtù, non per questo abbandonando le altre, ma per tenere sempre abitualmente il proprio spirito ordinato e occupato. Una giovane donna bellissima, splendida più del sole, vestita come una regina, cinta di una corona di olivo, apparve a San Giovanni, vescovo di Alessandria, e gli disse: «Sono la figlia primogenita del re, e se mi accetti come amica, ti condurrò alla sua presenza». La riconobbe. Era la misericordia verso i poveri che Dio voleva da lui. Vi si consacrò con tanta assiduità che fu chiamato San Giovanni Elemosiniere. E Eulogio di Alessandria desiderava compiere qualcosa di speciale per il Signore. Siccome non aveva abbastanza salute per abbracciare la vita dell'eremita o per porsi sotto obbedienza di un altro, accolse presso di sé un emarginato dalla società, campione di ogni vizio, di ogni ladroneria, per esercitare nei suoi confronti la carità e la mortificazione. E per farlo ancora meglio, fece voto di onorarlo, trattarlo e servirlo come un domestico nei confronti del suo padrone e signore. Ad un certo momento, sia l'uno che l'altro ebbero la tentazione di separarsi. Chiesero consiglio al grande Sant'Antonio, che disse: «Figli miei, guardatevi bene dal separarvi uno dall'altro. Siete ormai prossimi alla vostra fine, e se l'angelo non vi trova insieme, correte grande pericolo di perdere le vostre corone». Il re San Luigi considerava un premio visitare gli ospedali e serviva gli ammalati di persona. San Francesco amava tanto la povertà che la chiamava la sua signora. San Domenico amava tanto la predicazione che ne ha dato il nome ai suoi frati. San Gregorio il Grande, sull'esempio di Abramo, trattava i pellegrini con affetto. E il re della gloria gli fece lo stesso onore che aveva fatto al patriarca Abramo, presentandosi a lui in veste di pellegrino. Tobia esercitava la virtù della sepoltura dei morti. Santa Elisabetta, che pure era una grande principessa, amava l'abiezione di se stessa. Santa Caterina da Genova, rimasta vedova, si consacrò al servizio degli ospedali. Cassiano racconta che una ragazza devota, volendo esercitare la virtù della pazienza, ricorse a Sant'Atanasio, che le pose a fianco una vedova triste, collerica, dispettosa, insofferente, che, aggredendola senza interruzione, le diede modo di praticare alla perfezione la dolcezza e la condiscendenza. Tra i servitori di Dio c'è chi si impegna nel servizio dei malati, chi ad aiutare i poveri, chi a promuovere la conoscenza della dottrina cristiana tra i piccoli, chi a radunare le anime perdute o smarrite, chi a preparare le chiese, adornare gli altari, chi a procurare la pace e la concordia tra gli uomini. In ciò imitano i ricamatori, i quali su fondi diversi dispongono in studiata varietà le sete, l'oro, l'argento, per formare fiori di ogni specie. La stessa cosa fanno quelle anime pie che iniziano un speciale esercizio di devozione. Tale devozione serve loro da fondo per il ricamo spirituale, sul quale poi impostano le variazioni di tutte le altre virtù. In tal modo mantengono i loro atti e i loro affetti uniti e ordinati proprio in forza del rapporto in cui mantengono le singole virtù con la principale. Per tale motivo il loro spirito appare nel suo bel vestito di broccato d'oro, trapunto di vari motivi al lago. Quando siamo combattuti da qualche vizio, abbracciamo la virtù contraria, sempre che siamo in condizione di farlo. E poi riconduciamo le altre a quella. In tal modo sconfiggeremo il nemico e continueremo a progredire in tutte le virtù. Se sono combattuto dall'orgoglio, dalla collera, devo assolutamente chinarmi e piegarmi all'umiltà e alla dolcezza. Per riuscirvi, ricorrerò all'orazione, ai sacramenti, alla prudenza, alla costanza e alla sobrietà. Prendo il paragone del cinghiale, il quale, per rendere aguzze le zanne di difesa, le sprega e le appuntisce con l'aiuto di altri denti, il che fa sì che tutti ne risultino affilati, taglienti. Allo stesso modo, l'uomo virtuoso che ha iniziato l'opera della perfezione deve limare, affilare quella virtù della quale sente maggiormente il bisogno per la propria difesa. E questo per mezzo dell'esercizio di altre virtù, che a loro volta, mentre affilano quella, ne traggono vantaggio, migliorano e risultano meno ruvide. Così capitò a Giobbe, che esercitando in modo particolare la virtù della pazienza, a causa di tante tentazioni cui era sottoposto, finì col diventare perfettamente santo e virtuoso in tutte le virtù e sotto ogni aspetto. Secondo quanto dice San Gregorio di Nazianzo, può capitare che per un solo atto perfetto di una virtù qualcuno raggiunga l'apice di tutte le virtù. Come esempio, porta Raab, che per avere praticato in modo perfetto l'ospitalità, giunse a somma gloria. Ciò si deve intendere solo per i casi in cui l'atto è stato veramente perfetto e animato da grande fervore di carità. Capitolo secondo. Continuazione del medesimo pensiero sulla scelta della virtù. Molto bene, dice Sant'Agostino, quando afferma che coloro i quali iniziano il cammino della devozione commettono certi errori che, stando al rigore dei canoni sulla perfezione, sono biasimevoli. Ma per un altro verso sono lodevoli, perché sono segni della grande pietà che seguirà. Ne sono in un certo modo l'avvio. Il timore servile, frutto di ignoranza, che genera scrupoli eccessivi nelle anime di coloro che escono dall'abitudine al peccato, all'inizio può essere una virtù raccomandabile. Fa prevedere con sicurezza una retta coscienza in futuro. Se lo stesso timore dovesse persistere in coloro che hanno già fatto un certo progresso, sarebbe un segno negativo, perché nel cuore di costoro deve dominare l'amore che per gradi elimina il timore servile. Agli inizi San Bernardo era rigido e rude con coloro che si ponevano sotto la sua direzione. Diceva loro, per prima cosa, che era necessario abbandonare il corpo per continuare verso di lui solo con lo spirito. Quando ascoltava le loro confessioni, aggrediva con tale severità ogni loro difetto, per piccolo che fosse, faceva pressioni con tanta forza su quei poveri principianti che, volendo spingerli con troppa forza verso la perfezione, finiva per farli rinunciare e tornare indietro. Sotto quelle pressioni ininterrotte si scoraggiavano, si sentivano incapaci di affrontare una salita così ripida, così lunga. Se rifletti un po', Filotea, giungi alla conclusione che si trattava di uno zelo molto bruciante, di un'anima perfetta che consigliava a quel grande santo quel tipo di metodo. Quello zelo era senz'altro una grande virtù in sé, ma una virtù che, pur essendo tale, nel caso specifico, era da riprovare. Dio stesso gli apparve, lo corresse, colmò la sua anima di uno spirito dolce, soave, amabile, tenero, che lo resero totalmente un altro. Si accusò di essere troppo rigido e severo, e si trasformò in un uomo tanto cordiale ed arrendevole con tutti, da potergli applicare questo detto: tutto a tutti, per conquistare tutti. San Girolamo racconta che la sua cara figlia spirituale, Santa Paola, non solo era portata all'esagerazione, ma era testarda nella pratica delle mortificazioni corporali, fino a non volersi arrendere al parere contrario che il suo vescovo, Sant'Epifanio, le aveva espresso a riguardo. Oltre a questo, si era lasciata andare talmente al pianto per la morte dei suoi che aveva rischiato di morire. San Gerolamo conclude: «Mi direte che anziché tessere le lodi di questa santa, sto scrivendone critiche e rimproveri. Ma davanti a Gesù, che ella ha servito e che io voglio servire, affermo che non mento né pro né contro, come cristiano di una cristiana. Voglio dire che io ne sto scrivendo la storia, non un panegirico. I suoi vizi sono virtù per gli altri». Intende dire che gli scarti e i difetti di Santa Paola sarebbero state virtù in un'anima meno perfetta. Se consideriamo seriamente le cose, troveremo degli atti che vengono considerati difetti in coloro che sono perfetti, che potrebbero essere considerate grandi perfezioni in coloro che sono imperfetti. In uno che esce dalla malattia, è buon segno avere le gambe gonfie, perché dimostra che la natura ha già ripreso vigore e si sbarazza degli umori superflui. Ma lo stesso sintomo sarebbe cattivo in una persona non malata, perché starebbe ad indicare che la natura non ha sufficiente vigore per eliminare ed assorbire gli umori. Filotea, bisogna avere una buona opinione di quelli che vediamo impegnati nella pratica delle virtù, anche se frammiste ad imperfezioni. Anche i santi le hanno praticate in questo modo. Per quello che ci riguarda personalmente, dobbiamo impegnarci ad esercitarle molto seriamente, non solo con fedeltà, ma anche con prudenza. A tal fine facciamo nostro il consiglio del saggio: non fare affidamento sulla tua prudenza, ma su quella di coloro che Dio ti ha dato per guidarti. Ci sono alcune cose che molti considerano virtù e invece non lo sono affatto. Bisogna che te ne parli un po'. Sono le estasi, i rapimenti, l'insensibilità, l'impassibilità, l'unione deificante, le elevazioni, le trasformazioni e simili perfezioni su cui si dilungano alcuni libri, che promettono l'elevazione dell'anima fino alla contemplazione puramente intellettuale, all'adesione essenziale dello spirito e alla vita superiore. Vedi, Filotea, queste perfezioni non sono virtù. Sono piuttosto ricompense che Dio concede come premio alle virtù, o meglio ancora, saggi della felicità della vita futura, che qualche volta il Signore fa intravedere agli uomini per far loro desiderare il tutto lassù in paradiso. Questa non è una ragione per esigere tali grazie, anche perché non sono in nessun modo necessarie per servire e amare Dio, che deve essere la nostra unica aspirazione. Non sono grazie che possono essere conquistate con il lavoro e l'impegno, perché più che di azioni, si tratta di passioni, che siamo in grado di ricevere, ma non di procurare. Aggiungo che noi abbiamo iniziato un cammino per diventare persone oneste, gente devota, uomini pii, donne pie. Ecco perché dobbiamo impegnarci seriamente. Se poi Dio ha deciso di innalzarci fino a quelle perfezioni angeliche, sapremo essere anche dei buoni angeli. Ma in attesa, con molta semplicità, umiltà e devozione, esercitiamoci alle piccole virtù, messe dal nostro Signore alla portata del nostro impegno, del nostro lavoro. La pazienza, la bontà, la mortificazione del cuore, l'umiltà, l'obbedienza, la povertà, la dolcezza nei confronti del prossimo, la sopportazione delle sue imperfezioni, la castità, la diligenza, il fervore nelle cose sante. Lasciamo volentieri le altezze delle anime grandi. Non siamo capaci di un ruolo così elevato nel servizio di Dio. Saremo già contenti di poterlo servire in cucina o come fornai, di essere suoi servi, suoi facchini, magari suoi camerieri. è Lui solo che può decidere di chiamarci a far parte degli intimi e del consiglio privato. È così, Filotea, perché questo re di gloria non dà ai suoi servi le ricompense secondo il livello dei compiti assegnati, ma secondo l'amore e l'umiltà che hanno messo nell'esercitarli. Saul cercava le asine di suo padre. Trovò il regno di Israele. Rebecca abbeverò i cammelli di Abramo. Divenne sposa del figlio. Ruth, dopo aver spigolato dietro ai mietitori di Boaz, si coricò ai suoi piedi. Ma egli la volle al suo fianco e divenne sua sposa. La pretesa di cose straordinarie così alte ed elevate è facilmente occasione di illusioni, di inganni e di falsità. Capita qualche volta che coloro i quali pensano di essere angeli non sono nemmeno uomini come si deve. In loro, alla prova dei fatti, trovi solo sfoggio di parole, termini magniloquenti, ma vuoto di sentimenti e assenza di opere. Tuttavia non è bene disprezzare e censurare in modo temerario. Benediciamo Dio per la superiorità degli altri, ma rimaniamo nel nostro cammino, che corre più a valle ma è più sicuro. Se noi ci manteniamo in quello con umiltà e fedeltà, Dio ci innalzerà a grandezze maggiori. Filotea, introduzione alla vita devota, di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.